Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Passione Crime. In questa puntata Alessandro Robecchi è la Milano dei poliziotti Ghezzi e Carella, mentre Monterossi resta a guardare. Un nuovo caso per Sara, l'ex agente dei servizi segreti creata dalla penna di Maurizio De Giovanni. Ospite del caffè letterario Luca Crovi, scrittore ed esperto di gialli. Passione Crime, la passione dei lettori italiani per gialli, thriller e noir. Puntata monotematica del cacciatore di libri con scelte musicali ad hoc. Vi terremo compagnia ad agosto ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 11 con puntate dedicate ogni volta a un tema diverso. Oggi appunto Passione Crime. Dal classico giallo all'Agatha Christie, al thriller inquietante alla Stephen King, passando per i noir anche dalle tinte ironiche, come quelli di Andrea Camilleri. Fra l'altro vi ricordiamo che è uscito da poco l'ultimo volume con Montalbano protagonista, oppure Antonio Manzini con il vicequestore Rocco Schiavone. Si colloca in questa ideale sezione della libreria anche Alessandro Robecchi, che ha fatto di Milano e dell'autore televisivo, investigatore per caso, Carlo Monterossi, i punti fermi dei suoi romanzi. Nell'ultimo, I cerchi nell'acqua, pubblicato come tutti gli altri da Sellerio, c'è una piccola novità. I veri protagonisti sono i sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella, mentre Monterossi, diciamo che resta un po' nell'angolo a guardare. Ghezzi e Carella sono entrambi alle prese con casi personali, diciamo si tratta di indagini non proprio ufficiali. Ghezzi infatti viene contattato da una prostituta che lui aveva conosciuto all'inizio della carriera in polizia, perché praticamente il compagno di lei è scomparso, lasciando uno strano messaggio: ho visto qualcosa che non dovevo. Carella invece ha un conto in sospeso molto personale con un uomo che è appena uscito dal carcere e per seguirlo finirà per infiltrarsi in un giro di bische clandestine gestite dalla criminalità. Ma perché Monterossi, personaggio dall'ironia caustica, che ha fatto appunto la fortuna dei romanzi di Robecchi, questa volta è defilato? Sentiamo. La verità è che comanda sempre un po' la storia e quindi questa volta la storia era un po' nera, un po' di battifondi, di piani molto molto bassi della Milano che io descrivo, e quindi il Monterossi per una volta, avendo io tanti personaggi, è stato un po' in quinta, come si dice a teatro, perché non possono sempre stare tutti in primo piano, insomma. Però devo dire che anche se ha un ruolo più laterale del solito, è un po' sempre lui che tiene in mano il dossier etico-morale della storia, e quindi a questa storia, confessione che gli fa il mio poliziotto Ghezzi, che è poi la storia del libro, fa poi tutte le sue riflessioni e analisi. Una cosa che volevo dire, anche per questo l'ho tenuto un po' discosto, e volevo dire della, a volte, totale e siderale distanza che c'è tra la vita delle persone ed alcuni ambienti che qui si descrivono nel libro. Quindi, insomma, a un certo punto Ghezzi gli dice: Monterossi, lei non ha idea di cosa c'è là fuori. Allora, venendo un po' alle storie di Ghezzi e di Carella, dicevamo che entrambi hanno a che fare con casi molto privati in questa puntata, chiamiamola così, delle loro avventure. Allora, il Ghezzi incontra nuovamente la Franca, che è una prostituta ormai arrivata come lui intorno ai 60 anni, che insomma lo cerca perché dice che il suo compagno, il Salina, sostanzialmente che è anche il suo pappone, insomma non è esattamente uno stimolo

suo Massimiliano, il capo dei servizi segreti di questa unità speciale, un giorno aveva pronunciato questo nome, ma non le aveva mai raccontato nulla e non esiste alcun dossier a carico di questo Antonino Lombardo. Ecco, che cosa provoca in Sara questa idea, questa sensazione che forse ci potrebbero essere anche delle ombre sul suo Massimiliano? Ma questo evento che incide su Sara e smuove la sua memoria. E nella sua memoria lei, prima ancora di avere la sua relazione con Massimiliano, lei ricorda questo incontro e soprattutto ricorda l'espressione del volto di Massimiliano durante questo incontro. Un'espressione che lei riesce a interpretare alla luce del suo talento e delle sue competenze immediatamente, ma che non è congruente con l'idea che lei ha del suo uomo e con quello che il suo uomo le ha detto successivamente. Soprattutto non quadra con l'assenza di alcuni documenti nel famoso archivio di Massimiliano, che è un archivio che conserva maniacalmente quasi tutti gli eventi che sono entrati in contatto con l'attività professionale, quindi con l'attività dei servizi, negli ultimi 30 anni. Ci sono tanti altri personaggi in questo romanzo che sono dei personaggi dolenti in qualche modo. Penso per esempio ad Andrea Catapano, l'ex collega di Sara, ma penso anche a Manuel, questo giovane, questo ragazzo che va a trovare, per ragioni che poi si scopriranno nel romanzo, sempre in carcere, appunto, questo Antonino Lombardo ormai in fin di vita, ed è innamorato di Carla, una donna molto più grande di lui, anche lei malata di una malattia che sembra non avere, diciamo, soluzione. Come mai tutti questi personaggi così afflitti dal dolore circondano la vita di Sara? Ma è una io credo sia il riflesso di una sofferenza globale, sociale, che noi abbiamo, derivante dalle solitudini. Noi siamo tutti quanti connessi, tutti quanti in comunicazione costante fra di noi, ma in realtà non è vero. Quindi tutti questi malati in realtà sono l'esemplificazione di una sofferenza sociale che io vedo forte e chiara. Il romanzo nero fa questo, no? Il romanzo nero non fa altro che recepire questo tipo di problematiche e renderlo visibile, insomma, narrativamente. E questo era Maurizio De Giovanni che ci ha parlato di Una lettera per Sara, pubblicato da Rizzoli. Sempre per quanto riguarda le creature di De Giovanni, segnaliamo che in autunno andrà in onda sulla Rai la serie TV tratta dal suo personaggio forse il più amato, il commissario Ricciardi. Non dovrebbero esserci ritardi nella programmazione a causa del Covid, quindi insomma presto potremo vedere Lino Guanciale nei panni del commissario Ricciardi nella serie diretta da Alessandro Dalatri. E siamo allo spazio dell'audiolibro della settimana, naturalmente in tema con l'argomento della puntata, che oggi è Passione Crime, la passione per gialli, thriller e noir. L'audiolibro scelto è Maigret al Picrats di Georges Simenon, letto da quel gigante, permettetemi di dire, di Giuseppe Battiston e prodotto da Emmons. Siamo a Parigi. Arlette, una giovane spogliarellista di Pigalle, alle 4 del mattino, un po' brilla, va in un commissariato dicendo di aver sentito al night due uomini che organizzavano l'omicidio di una contessa. Nessuno le crede. Ma poco dopo viene ritrovata strangolata, così come a distanza di qualche ora viene uccisa anche la contessa. Sembrava che avesse bevuto. Era a capo scoperto e quando passava sotto un lampione i suoi capelli mandavano un riflesso dorato. Camminava lentamente e ogni tanto si fermava come se stesse parlando da sola. Il barista le chiese in tono familiare: «Un caffè, Arlette?» «Sì, corretto». E ben presto si diffuse nell'aria il caratteristico odore del rum nel caffè caldo. Due o tre uomini bevevano al banco, ma lei non li degnò di uno sguardo. In seguito il padrone del bar avrebbe dichiarato: «Sembrava sfinita». Fu senz'altro per questo che prese un secondo caffè con una doppia correzione di rum e la sua mano tradì una certa difficoltà a estrarre i soldi dalla borsetta. «Buonanotte». «Buonanotte». L'agente Jussiom notò che al ritorno l'andatura della ragazza era ancora più malferma. Quando fu alla sua altezza e poté distinguerlo nel buio, gli si fece incontro e disse: «Voglio fare una denuncia al commissariato». Il cacciatore di libri. Note inquietanti ci introducono allo spazio del caffè letterario di oggi. Per la puntata monotematica dedicata al crime abbiamo come ospite uno dei massimi esperti del genere. Lui sa tutto, vi giuro, ma proprio tutto, di qualunque scrittore, di qualunque giallo, conosce retroscena, gli aneddoti. Insomma, se c'è bisogno di qualche consiglio su gialli, thriller e noir, lui è la persona giusta. Luca Crovi. Luca Crovi che, fra l'altro, è autore di La storia del giallo in 50 investigatori, pubblicato da Centauria, e vi segnalo che a settembre uscirà per Marsilio Storia del giallo italiano. Ma Crovi è anche autore di romanzi. L'ultimo si intitola L'ultima canzone del naviglio, pubblicato da Rizzoli, e trovate su Radio 24 nella sezione Il cacciatore di libri il podcast dedicato proprio a questo libro. Luca Crovi, la presentazione più lunga della storia, ma insomma bisogna far capire ai nostri ascoltatori che quando c'è bisogno di parlare di gialli io mi rivolgo esclusivamente a te. Allora, in questo spazio dedicato appunto al caffè letterario, noi ti chiediamo di darci qualche consiglio dalla tua personalissima playlist di gialli, thriller e noir. Qual è il primo titolo che ci proponi? Allora, il primo titolo che vi propongo è una riedizione di un libro di Richard Matheson che si chiama Io sono leggenda, che è un libro che tratta il tema della pandemia, è stato ristampato da Mondadori con un'introduzione di Giancarlo De Cataldo e racconta cosa può succedere se nel mondo si diffonde un'epidemia di vampiri. Il protagonista si chiama Robert Neville ed è l'ultimo sopravvissuto sulla Terra. Quindi insomma anche attuale, che... devo dire, cioè, lì si parlava di epidemia di vampiri, però insomma il tema è quello. Ma la cosa bella è che quest'uomo in realtà non ha il problema di convivere con altre persone come lui, ma con persone diverse da lui, tanto che si sentirà lui l'estraneo, no? Quello che ogni giorno deve usare i paletti per eliminare i vampiri. Da questa storia sono stati tratti due film, anzi tre, molto belli. Uno aveva per protagonista Charlton Heston, l'altro ha avuto Wilbur Smith e poi ce n'è uno invece con Vincent Price, che è stato interamente girato in Italia. Ma il romanzo di Matheson è una sorta di analisi di che cosa può succedere non solo quando un virus scappa alla scienza e agli uomini, ma soprattutto di come si può sopravvivere in una nuova realtà, inventandosi nuove regole e avendo nuovi stimoli. Per cui il protagonista ovviamente deve leggere libri, deve ascoltare musica, deve trovare posti di incontro anche se non ci sono più persone come lui. E questo è Io sono leggenda. Secondo titolo, così spariamolo al volo, Luca Crovi. Secondo titolo, vi mando in vacanza con Long John Silver, con La vera storia di Long John Silver di Bjorn Larson, pubblicato da Iperborea, e vi troverete non nell'isola del tesoro, ma nella vera storia di questo pirata, raccontata da questo incredibile scrittore svedese che è riuscito a dare una vita precedente al protagonista creato da Stevenson. Scoprirete come si muovevano i pirati dell'epoca, cosa mangiavano, che processi facevano, e soprattutto scoprirete quanto è simpatico Long John Silver. Ed è simpatico anche l'autore Bjorn Larson, lo diciamo perché lui è svedese ma ha passato molto tempo in Italia, ama tantissimo il nostro paese, parla un ottimo italiano, quindi insomma è un autore che anche qui al Cacciatore di Libri, devo dire, ospitiamo sempre con grande, grandissimo piacere. Altro titolo che puoi, come dire, prendere dalla tua biblioteca virtuale, anzi non oso pensare, quanti gialli tu hai a casa tua? Allora, diciamo che tra gialli e libri di letteratura che vanno d'avventura eccetera, siamo oltre i 25.000. Questo crea dei problemi a casa mia, non solo di sopporto del peso, ma di sopporto da parte dei familiari, che dopo un po' non mi sopportano più. Praticamente hai una casa solo per i libri, insomma. Sì, e questa volta vi regalo un horror, nel senso che vi mando praticamente in un'edizione svedese di Dracula, che è appena stata pubblicata da Carbonio Editore, che si chiama I Poteri delle Tenebre, ed è l'edizione islandese del Dracula, che è la più vicina alla versione originale e che ci racconta in realtà alcune storie in più che nella versione del Dracula di Bram Stoker non sono presenti. Stoker vendette praticamente all'estero liberamente la sua edizione, prima in Svezia e poi in Islanda, e in questo testo c'è un'introduzione molto bella che tutti gli amanti di giallo e di misteri ameranno, perché in questa introduzione lui spiega che è arrivato a scrivere delle storie così sanguinose e spaventose sul conte Dracula perché in quel periodo c'erano le gesta di Jack lo Squartatore a Londra, e quindi voleva chiarire. Era stato ispirato anche... forse? L'ha sicuramente ispirato, e tra l'altro ci furono delle indagini sull'attore che interpretava poi in quel periodo il Dracula a teatro, tanto che si sospettò che questo attore che interpretò Dracula e anche Dr. Jekyll e Mr. Hyde probabilmente fosse lui l'esecutore dei delitti. Ah, caspita, vedi, questa è una retroscena decisamente interessante. Quando dico che Luca Crovi sa tutto, ma proprio tutto, dei gialli, dei thriller, dei noir e anche dei retroscena, come vedete ho esattamente ragione, insomma me ne dai conferma per fortuna direttamente in onda. Allora Luca, peschiamo un altro giallo dalla tua valigia. Prendiamo un bel thriller di Jeffrey Deaver di alcuni anni fa, meraviglia. Si chiama Profondo Blu, ed è una storia che in realtà vi spiega che sarebbe meglio non usare i vostri computer, o almeno di usarli in sicurezza, perché dei serial killer potrebbero entrare tramite il cestino della vostra posta o anche tramite le vostre email, sapere tutto di voi e trasformarvi in vittime facilmente. Molti di voi pensano di essere sicuri utilizzando un computer, soprattutto in questo periodo in cui la tecnologia ci ha particolarmente aiutato, ma un computer è anche perfetto per essere dei bersagli da parte di persone che ci vogliono eliminare o che ci vogliono stalkerizzare in qualche modo. Quindi il consiglio mio è proteggersi comunque con degli antivirus e dei firewall, onde evitare che ci siano serial killer che pescano nella nostra posta o nelle nostre mail. Questa è una cosa inquietante. Devo dire che negli ultimi 2 o 3 anni sono usciti una serie di romanzi gialli, thriller, con questa idea appunto che si possa entrare, in realtà non è un'idea, è una realtà, che attraverso il tuo cellulare, magari anche la tua webcam che è spenta a casa, in realtà stanno entrando, ti stanno osservando, magari iniziano a stalkerizzarti, fanno tutta una serie di cose. Questa è effettivamente una realtà possibile. Qua non siamo nell'ambito della fantascienza, ma della realtà pura e semplice. No, tenete presente che gli hacker possono entrare anche nel vostro conto privato, da quel punto di vista, ed è molto pericoloso se uno non è protetto, e soprattutto io eviterei di usare i social dove mettete dei dati sensibili su di voi. Ecco, quello sicuramente è una protezione che bisogna tenere, ma è inquietante. Immagino poi Jeffrey Deaver come l'abbia realizzato tutto ciò. Beh, poi immaginatevi che il suo protagonista Lincoln Rhyme è alle prese con una persona che da remoto può spegnere tutte le attrezzature che gli permettono di restare in vita, lui che è tetraplegico, perché entrando nella parte computer della sua casa lui può perdere il respiratore. Ecco, io vi consiglio di leggere questo romanzo consigliato da Luca Crovi, Profondo Blu di Jeffrey Deaver, magari su un e-reader, così all'improvviso tutto quanto si pixelerà all'improvviso e voi penserete di essere finiti direttamente all'interno dello stesso romanzo. Allora Luca, sai che io scherzo sempre naturalmente quando mi racconti di questi gialli un po' inquietanti. Altro titolo che pensi di consigliare agli ascoltatori del Cacciatore di Libri? Allora, vi vorrei mandare in vacanza a Napoli con la prima avventura del commissario Ricciardi, che si chiama Il senso del dolore. Questa era la prima, giusto? Sì, è la prima. Perché ricordiamo che nel 2019 è stato pubblicato l'ultima puntata della serie dedicata appunto al commissario Ricciardi, invece tu vuoi recuperare proprio il primo romanzo in cui compariva. Io consiglio di iniziare dall'inizio sostanzialmente, e tra l'altro di girare per le strade di Napoli assieme al commissario Ricciardi, creato da Maurizio De Giovanni, l'edizione ovviamente è pubblicata da Einaudi, e magari entrerete a visitare il San Carlo dove è ambientata una parte di questa storia, perché la vittima di questa avventura del commissario Rincialdi, che si chiama Armando Vezzi, è un cantante d'opera che viene trovato morto nel suo camerino. E ricordiamo che la caratteristica appunto di Ricciardi è quello di percepire, sentire, ascoltare le ultime parole pronunciate dalle persone morte di morte violenta. Tra l'altro De Giovanni l'abbiamo sentito poco fa invece parlando di un altro suo personaggio seriale, anche perché De Giovanni è uno scrittore molto prolifico. Oltre appunto a Ricciardi ci sono i Bastardi di Pizzo Falcone, c'è Sara, c'è un nuovo personaggio che ha pubblicato l'anno scorso con Sellerio. Insomma, è uno scrittore che ci regala veramente tante emozioni in giallo e in noir soprattutto. Ed è uno scrittore anche che vi fa viaggiare per una città incredibile come Napoli, facendovi scoprire com'era negli anni 30. E infatti, perché le storie di Ricciardi sono appunto ambientate in quel periodo. Luca Crobi, abbiamo tempo per un altro consiglio. Chi pensi di pescare dalla tua valigia immaginaria? Un altro consiglio italiano, vi consiglio di recuperare un bellissimo libro di Massimo Carlotto che si chiama Arrivederci Amore Ciao, che vi porta nella zona del nord-est d'Italia. Potreste anche andare a cercare un ristorante che si chiama La Nena, che viene raccontato all'interno di questa storia, ma non vi consiglio di incontrare Giorgio Pellegrini, che è il grande bastardo protagonista della storia. Un uomo che è capace di circuire delle donne come la Tedesco, di invitarle a cena e magari farle fuori poco dopo, approfittando non solo dal punto di vista fisico di loro, ma anche dal punto di vista economico, perché si appropria di solito anche dei loro patrimoni. Per costruire questo personaggio Carlotto si è ispirato a almeno due persone reali che avevano avuto una vita criminale di un certo tipo, e Pellegrini poi è tornato in altre storie successive incontrandosi anche con un suo personaggio che è l'alligatore, ed è sicuramente il personaggio più dannato e maledetto che abbia creato all'interno dei suoi romanzi. Sì, l'alligatore, devo dire, è un personaggio seriale molto amato anche dagli ascoltatori del Cacciatore di Libri. Tra l'altro, tu non potevi saperlo, ma dopo la pausa andrà in onda esattamente un'intervista a Massimo Carlotto sul suo ultimo romanzo La Signora del Martedì, nel quale l'alligatore compare un po', diciamo, sotto mentite spoglie, non si dichiara apertamente, però devo dire che Massimo Carlotto riesce a creare sempre dei personaggi molto forti, come giustamente tu facevi prima riferimento a Pellegrini, ma secondo me è uno scrittore che riesce ad avere anche un grandissimo tocco di umanità nel momento in cui parla di descrive alcuni personaggi. Sì, anche perché lui tratta il tema delle vittime, no? Le vittime che spesso non vengono rispettate non solo dai carnefici, ma spesso non vengono aiutate dalla giustizia. Ecco, adesso dopo quella cosa inquietante che mi hai detto di Pellegrini che potrebbe venirmi a cercare, cercherò di mantenere la calma andando avanti nella conduzione del programma. Grazie Luca Crobi, sei sempre preziosissimo quando si tratta di dare consigli su gialli, thriller e noir. Voglio ricordare anche i tuoi libri, perché se volete avere una, come dire, una mini enciclopedia del giallo, abbiamo a disposizione La storia del giallo in 50 investigatori di Luca Crobi, pubblicato da Centauria, e se avete la pazienza di aspettare un po', a settembre uscirà per Marsilio Storia del giallo italiano. Grazie Luca Crobi. Grazie a voi e buona lettura. Una breve pausa e poi appunto ci risentiremo con Massimo Carlotto e il Jukebox Letterario. Il Cacciatore di Libri. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the Gypsy Fairy Queen. The Gypsy Fairy Queen di Marianne Faithfull, una canzone citata nel romanzo La Signora del Martedì di Massimo Carlotto, pubblicato da EO. Carlotto è un altro degli autori di noir molto amato dai lettori italiani, per esempio con il suo personaggio seriale dell'alligatore, investigatore privato sui generis, molto sui generis, diciamo che se deve violare la legge, insomma, non si fa pregare. L'alligatore compare anche in questo La Signora del Martedì, ma diciamo sotto mentite spoglie, senza dichiararsi apertamente. Protagonisti infatti sono un attore porno al tramonto, bonamente, giuro si chiama così, Fanzago, e un travestito, il signor Alfredo, che gestisce la pensione a Lisbona dove l'attore vive. Fanzago ha superato i 50 e ormai a fine carriera ha anche avuto un ictus. Per arrotondare, da anni fa anche il gigolò e ogni martedì, fra le 15 e le 16, riceve una donna misteriosa. Il signor Alfredo si prende cura di Fanzago e per questo si troverà in un caso ingarbugliato in cui ci scappa anche il morto. Questo è un romanzo che guarda agli esclusi della società con indulgenza e con una grande, grandissima umanità. Che volevo scrivere un romanzo sui corpi che sono usati, amati, usati socialmente, amati, quotati sul mercato, e poi mi sono chiesto che cosa succede dopo a questi corpi. Il dopo mi ha interessato moltissimo, e quindi i corpi hanno un prima, un durante e un dopo. A me interessava il dopo di questi corpi, di queste persone. E così, osservando questo mondo delle persone che vivono al lato della società, mi ha colpito molto il sogno di avere diritto ai sentimenti e di poterli praticare. Cioè il sogno, dovrebbe essere il diritto di tutti, ma non è così la normalità. Per esempio la normalità di un travestito di vestirsi da donna sempre, tutta la vita, invece no, un travestito si può vestire da donna solo quando è giovane, è appetibile, stuzzica fantasie, ma se è un vecchio con la gonna di 65 anni... Non va più bene, infatti tu lo scrivi, a un certo punto dici un travestito è tollerato solo se è giovane, se può essere scambiato per una donna e stuzzica fantasie, ma un vecchio con la gonna e i tacchi risulta grottesco, soprattutto in un mondo sempre meno tollerante. Ecco, il signor Alfredo soffre di questa persecuzione, proprio che a lui non riesce ad essere se stesso. Esattamente, riesce a essere se stessa. Se stessa, giusto, no, perché ne parli anche all'interno, delle mura della pensione Lisbona, che in questo romanzo la pensione Lisbona è un po' un luogo dell'anima, è un po' un rifugio. Infatti io non ho voluto specificare la città dove si svolgono gli avvenimenti, perché mi interessava concentrare tutto in questa pensione dove si incrociano i destini dei personaggi. E si incrociano in un modo anche molto tenero, molto umano, perché per esempio il rapporto che c'è fra il signor Alfredo e l'attore porno è molto bello. Lui sembra essere suo padre o sua madre, insomma c'è un rapporto di affetto. Il signor Alfredo si prende cura proprio della vita di Bonamente Fanzago, anche perché l'attore porno appunto si trova in un periodo della sua vita difficile e a fine carriera sostanzialmente. Il suo corpo non va più bene per il mestiere che fa, per il cinema porno sono cambiata l'iconografia del porno, e in più ha avuto un ictus. Ecco, come vive questo suo stato di decadenza, di Viale del Tramonto, insomma? E i corpi del porno durano sempre meno, perché sono costretti ad assumere talmente tanta chimica che alla fine la chimica fa male. E quindi lui la vive malissimo, Bonamente vive malissimo questa situazione, perché non riesce a intravedere un futuro. Non è poi così preoccupato, però è preoccupato dalla malattia. Per la prima volta nella sua vita sono entrate anche le medicine. Il fatto di avere una malattia che comunque da cui non riuscirà a guarire. E poi che gli ha lasciato uno strascico molto molto particolare, questi scoppi di pianto improvvisi. È diventato improvvisamente emotivo, anche se tu quando descrivi Bonamente dici che quello che più lo atterriva erano le dinamiche delle relazioni fra parenti, il peso insostenibile degli affetti, degli obblighi, degli inevitabili risentimenti. E poi aggiungi, non voleva lasciare nulla dietro di sé. Voleva solo attraversare il proprio tempo senza troppi problemi. Lui è nato in una famiglia benestante che ha lasciato, dalla quale si è allontanato, e lui veramente non vuole lasciare il segno. Quindi apparentemente è freddo, in realtà gli scoppia un'emotività pazzesca. Eh sì, aveva sbagliato tutto. Proprio da questo punto di vista si era costruito un percorso di vita che alla fine si è infranto contro il sentimento più bizzarro ma anche più travolgente, che è l'amore. L'amore per una donna. Lui ogni tanto, per arrotondare, fa il gigolò, e ormai da tanti anni riceve ogni martedì pomeriggio fra le 15 e le 16 una donna misteriosa di cui lui appunto si è innamorato. Lui che non si era mai innamorato in vita sua. No, aveva sempre avuto relazioni che erano finite così senza... No? Però questa donna lo intriga maledettamente, alla fine si innamora. Si innamora, qui siamo al nono anno quando c'è il romanzo, nono anno di frequentazione del martedì, E lui al settimo anno si è proprio dichiarato. E lei è scomparsa, otto mesi d'inferno in cui lui non sapeva veramente a che santo votasse. Poi lei è tornata, però l'ha trattato sempre come gigolò. Tu sei il mio gigolò, io sono una cliente. Poi si scopriranno tante cose che naturalmente non possiamo dire, se no vi facciamo perdere il gusto della lettura. Vi dico solo che c'è a un certo punto così un personaggio femminile che è soprannominato Nanà, di cui c'è un passato molto doloroso alle spalle. Lei era stata sostanzialmente venduta da suo padre ad un uomo, insomma si era prostituita, poi era stata accusata dell'omicidio di un suo amante, poi era stata assolta, poi di nuovo accusata, poi era andata in carcere. E qui tu ne fai uno spaccato di una vicenda giudiziaria allucinante che era sostanzialmente diventata mediatica. Lei era stata data in pasto ai giornali, alla televisione, e tu parli proprio del tribunale del popolo televisivo, comunque dei giornali, che decideva tutto sostanzialmente. E c'è una critica, ovviamente, immagino. C'è una critica alla modernità che tratta le vicende giudiziarie in modo notevolmente peggiore del passato. Nel senso che un tempo i social non esistevano e le persone avevano uno sguardo più critico rispetto a queste cose. Invece oggi, in cui viviamo, cioè viviamo in un momento storico in cui c'è desiderio di vendetta, di rivalsa, la cattiveria trionfa, la gente insicura per cui è frustrata, e questo sguardo critico è stato cancellato dai social, che molto spesso vengono anche usati come orientamento di opinione pubblica per orientare un processo oppure l'altro. E questo ha determinato un clima pesantissimo. Se finisci stritolato da questi meccanismi, non hai assolutamente la possibilità nemmeno di ribattere, nel senso che c'è una sorta di pensiero unico che si abbatte sulle persone. E questo era Massimo Carlotto che ci ha parlato di La signora del martedì, pubblicato da EO. Me and my gypsy queen. Jukebox letterario. Consigli per tutti i gusti. Allora spazio a qualche segnalazione. La salita dei saponari di Cristina Cassarscalia, pubblicato da Einaudi. Torna il personaggio seriale del vicequestore a Catania, Vanina Guarrasi. Un uomo dal passato poco limpido viene trovato morto nel parcheggio dell'aeroporto con un colpo di pistola al cuore. All'inizio non ci sono indizi, finché però una donna legata a lui, insomma un'amica, viene trovata morta in un pozzo. Questa volta Vanina avrà a che fare con un intrigo internazionale. Sicario, come si diventa un killer? Una storia vera, di Andrea Galli, pubblicato da Rizzoli. Il giornalista del Corriere della Sera racconta la storia vera del killer più letale d'Europa, l'albanese Julian Sinanai. Addestrato fin da ragazzino ad uccidere, si rende responsabile di una serie di delitti legati a intrighi internazionali e terrorismo. Altro giallo, Mara Dagal, la prima indagine del commissario Cattaneo di Eugenio Tornaghi, pubblicato da Laurana Editore. Questo è un romanzo piuttosto corposo, ve lo dico subito, sono quasi 700 pagine, ma decisamente appassionanti. Siamo in Brianza, Lombardia, nei primi anni 2000, gli anni in cui in quella zona in tanti si arricchivano con l'edilizia. Il giovane Cattaneo, non ancora diventato commissario, quindi insomma si tratta di un prequel, si trova in uno strano caso. Un giornalista che conosce viene aggredito. Possibile che c'entri il suo lavoro di cronista? È strano, perché lui ha scritto solo alcuni articoli sulla scomparsa di un matto. E beh, Cattaneo dovrà ovviamente scoprire la verità. Giallo Sardo è un'antologia con racconti gialli scritti da autori sardi come Marcello Fois e Pier Giorgio Puligi, che aveva vinto il premio Scerbanenco 2019, ossia il massimo riconoscimento italiano per autori di gialli, thriller e noir, con L'isola delle anime. L'antologia Giallo Sardo è pubblicata da PM. Per chi ama i gialli anche un po' dalle tinte più leggere, segnalo La memoria del lago di Rosa Teruzzi, pubblicato da Sonzogno. È una nuova avventura di Libera, la fioraia del Giambellino, quartiere milanese, che è una sorta di investigatrice per passione. Infatti, come sempre, indaga con l'anziana madre e la figlia. E infine, consiglio per i bambini appassionati di mistero. Escape Book, La piramide della morte di Leonardo Lupo, pubblicato da Il Battello a Vapore. È un libro che è anche una sorta di gioco, perché esattamente come succede nell'escape room bisogna risolvere degli enigmi, decifrare dei codici per riuscire ad uscire. In questo caso uscire appunto dal libro. In questa puntata avete ascoltato le interviste a Alessandro Robecchi, Maurizio De Giovanni, Massimo Carlotto. Ospite del caffè letterario Luca Crovi, scrittore ed esperto di gialli. Musiche: Calibro 35, Milano odia, la polizia non può sparare. Morrissey, The Last of the Famous International Playboys. Slayer, Dead Skin Mask. Marianne Faithfull, The Gypsy Fairy Queen. Jimi Hendrix, Hey Joe. Talking Heads, Psycho Killer. Sound design, Luigi Speciale. In regia, Roberta Frisani, Gianmarco Ferronato, Andrea Roccabella. E per questa puntata dedicata a Passione Crime è tutto. L'appuntamento con Il Cacciatore di Libri Estate è per ogni sabato alle 6, alle 16 e la domenica alle 11 del mattino. Vi ricordo che si tratta di puntate monotematiche con interviste agli scrittori e ospiti nel caffè letterario. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it nella sezione Il Cacciatore di Libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.